Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, non abbiamo sbagliato sigla, ma oggi dedichiamo questa puntata della nostra trasmissione ai libri per bambini, perché dal 23 al 26 marzo si svolge a Bologna l'edizione annuale della Fiera del Libro per Ragazzi, un appuntamento per gli operatori, per i professionisti, che però permette di riaccendere i riflettori su questo settore così importante dell'editoria e anche così importante per le scelte che facciamo di lettura nelle nostre famiglie. Quindi oggi parliamo di libri per bambini e partiamo proprio dai bambini più piccoli, da quelli che ancora non sanno leggere. Partiamo anzi dall'ABC. Vi segnalo perciò Abbecedario, è pubblicato da Franco Panini e costa 18,50 euro ed è illustrato da Francesca Biasetton. È scritto questo libro da 26 autori, uno per ciascuna lettera. Fra gli autori troviamo alcuni noti scrittori e alcuni dei più noti scrittori di libri per ragazzi e per bambini, ciascuno dei quali, vi dicevo, prende in consegna una lettera e illustra con una filastrocco, con una fiaba, il contenuto di quella lettera. Continuiamo con i più piccoli, con un libro di Alberto Benevelli, Mondo spaventoso, mondo meraviglioso, illustrato da Loretta Serofilli e pubblicato da San Paolo, 12,50 euro. Qui abbiamo un libro che ci fa riscoprire la fiducia in noi stessi attraverso l'avventura di un leprotto che vince l'iniziale fobia per il mondo esterno, scoprendo alla fine che il mondo può riservare molte belle sorprese. Invece troviamo due conigli nel libro di Claude Bougeon, Il litigio, è pubblicato da Babalibri, tradotto da Stefania Cella. Costa 11 euro ed è la storia classica di un rapporto che si fa sempre più difficile tra due vicini di casa, due conigli appunto, che alla fine riscopriranno il gusto dell'amicizia. Un libro particolare è Quante cose so, di Anne e Paul Rand, pubblicato da Corraini, 16 euro, tradotto da Francesca Novaira. A modo suo questo è un classico, il libro infatti è del 1956 e acquistò una grande notorietà per le illustrazioni di Paul Rand, morto nel 1996, che fu uno dei più grandi disegnatori e grafici americani. Tra l'altro è stato lui che ha inventato alcuni dei marchi industriali più famosi al mondo. E quindi questo è un libro particolarmente attraente, non solo per la storia ma anche dal punto di vista delle immagini e dei colori, elegante e curioso da sfogliare, sicuramente anche per un lettore adulto. Rimaniamo nel campo al quale ci ha fatto avvicinare Rand, cioè il campo dell'arte, con Mondo dipinto. Questo è un libro di Stefano Zuffi, pubblicato da Feltrinelli Kids, 224 pagine, 15 euro. Un libro per più grandicelli che potranno accostarsi a 22 capolavori della pittura, dalla Cappella degli Scrovegni di Giotto fino ai quadri astratti di Kandinsky. Ciascun quadro viene presentato, illustrato e commentato da Zuffi, mettendo anche i più giovani nella condizione di accostarsi all'arte, di conoscerla e di capire la pittura. Sentite per esempio queste righe dedicate proprio a Kandinsky, che aiutano anche i più piccoli a capire che cosa ha significato la rivoluzione astratta che inizia appunto col grande pittore russo. Un giorno è successo un fatto imprevisto. Avevo appena finito di dipingere uno di questi paesaggi e, come faccio sempre, ho tolto la tela dal cavalletto e l'ho appoggiata su una seggiola vicino alla finestra per far asciugare le tinte. Ho ricominciato a lavorare su un'altra opera e solo qualche ora dopo ho dato di nuovo un'occhiata al quadro. Per distrazione, l'avevo appoggiata al contrario, a testa in giù. Capita. Stavo per girarlo nella posizione giusta, ma mi sono fermato di colpo. In fondo, la composizione funzionava benissimo anche così. Chiaro, non si capiva assolutamente più nulla del soggetto. Colline, prati, tutto era irriconoscibile a gambe all'aria. Non si vedeva altro che una costellazione di macchie, confusa eppure viva, vibrante, carica di espressività. Ogni colore era come una nota, un suono. La pittura, ho pensato allora, può essere astratta, proprio come la musica. Così, da una tela ribaltata, ho cominciato a dipingere quadri astratti. Chi vuole può cercare significati, figure, scene. Un segno appuntito può essere il tetto di una casa, la cima di un monte, la sagoma di un abete, la freccia scoccata da un cavaliere. Ognuno è libero di interpretare, ma le mie macchie non sono mai casuali. Ogni colore ha un suono, dicevo, ma secondo me ha anche una forma, un valore specifico che entra in gioco con tutti gli altri. Naturalmente anche nei libri di nuova produzione non mancano i classici. Vi ricordo per esempio la serie Una fiaba in tasca delle edizioni EL, nella quale escono Hansel e Gretel dei fratelli Grimm e La cicala e la formica di Esopo, che vengono raccontate da Roberto Piumini, quindi con un linguaggio moderno, e sono illustrate le storie rispettivamente da Anna Laura Cantone e da Nicoletta Costa. Ciascun libricino costa 3,50 euro e questa è una formula fortunata per la dimensione del libro, per la gradevolezza dello stile, per la facilità di lettura, che permette di riscoprire delle storie che fanno davvero parte della cultura universale. Ma i classici possono essere anche i classici degli adulti, che possono essere riproposti ai lettori più giovani per farli entrare in familiarità con storie e personaggi che poi li accompagneranno certamente per tutta la vita. Per esempio, ai lettori più piccini segnalo Don Chisciotte, che è presentato da Carlos Reveio e illustrato da Javier Zabala e tradotto da Anna Cecilia Prenze, pubblicato da Bohem Press, 30 pagine, 14 euro. E questa è una versione sintetica, telegrafica, ma appassionante anche per i pittogrammi, cioè le immagini che sostituiscono alcune parole, che rendono per i più piccoli sicuramente divertente accostarsi a questo straordinario personaggio della civiltà letteraria. Per i lettori un po' più grandi invece segnalo due altri personaggi immortali, il Faust e l'Avaro, le due creazioni di Goethe e di Molière, che ci sono presentati da Roberto Mussapi e illustrati da Giorgio Bacchin nelle edizioni di Yaka Book. Ciascun libro costa 14 euro e dall'Avaro vi segnalo queste righe che vi danno una testimonianza di come si possa trasporre con la prosa di Mussapi la sordida figura di Arpagone. Arpagone entrò nella sala insultando il servo Freccia. Non lo voleva attorno, ma questi insistette che lì doveva attendere Cleante. Che lo aspettasse fuori, gridò Arpagone, e si togliesse dai piedi, ma solo dopo un'accurata perquisizione. Sono sicuro che mi hai rubato qualcosa, gridava, e inutilmente Freccia gli ricordava di essere al suo servizio da anni. Arpagone gli controllò le tasche, tutti i risvolti e le pieghe, mentre il povero servo imprecava a bassa voce contro il padrone e infine veniva messo alla porta. Parlando tra sé e sé, Arpagone si domandava se avesse fatto bene a sotterrare in giardino i 10.000 scudi che gli avevano restituito il giorno prima. 10.000 in casa era una somma ingente. Non si dava pace, ma quella di seppellirli in una cassa era senz'altro la migliore soluzione provvisoria. Quando si accorse che erano entrati Elisa e Cleante, rimase di stucco. Non li aveva visti arrivare, mentre parlava a bassa voce tra sé. Sicuramente avevano sentito della cassa con i 10.000 scudi. Li sottopose a un lungo interrogatorio per scoprire se avessero udito qualcosa, ma i due ragazzi, che non avevano sentito niente, cercarono di placarlo senza troppa convinzione. Conoscevano il suo mondo di continui sospetti, le sue farneticanti paure di essere derubato. Ci sono poi degli autori che sono diventati essi stessi dei classici ormai, per esempio Gianni Rodari, morto nel 1980, tra i più famosi autori di libri per ragazzi, di cui vengono riproposti alcuni titoli. Per i più piccoli, La passeggiata di un distratto, con le illustrazioni di Letizia Geminiani in arte Alistar, pubblicato da M Edizioni, 13,50 euro. Un libro coloratissimo con una delle famose favole al telefono di Rodari, che mette in guardia ridendo contro i rischi della distrazione. Poi c'è Le avventure di Cipollino, pubblicato da Einaudi Ragazzi, 176 pagine, 16 euro, con i disegni di Manuela Santini, uno dei titoli più famosi di Rodari, di cui vi faccio ascoltare l'inizio, capace di introdurci al clima un po' surreale, ma tutt'altro che falso, delle sue storie. Cipollino era figlio di Cipollone e aveva 7 fratelli, Cipolletto, Cipollotto, Cipolluccio, e così di seguito, tutti i nomi adatti a una famiglia di cipolle. Gente per bene, bisogna dirlo subito, però piuttosto sfortunata. Cosa volete? Quando si nasce a cipolle, le lacrime sono di casa. Cipollone e i suoi figli abitavano in una baracca di legno, poco più grande di una cassetta di quelle che si vedono dall'ortolano. I ricchi che capitavano da quelle parti torcevano il naso disgustati. «Mamma mia, che puzzo di cipolla!» dicevano, e ordinavano al cocchiere di frustare i cavalli. Una volta doveva passare di là anche il governatore, il principe Limone. I dignitari di corte erano molto preoccupati. Che cosa dirà a Sua Altezza quando sentirà questo odor di poveri? Si potrebbe profumarli, suggerì il gran ciambellano. Una dozzina di limoncini furono subito spediti laggiù a profumare i poveri. Per l'occasione avevano lasciato a casa le spade e i fucili e si erano caricati sulle spalle grossi bidoni pieni di acqua di colonia, di profumo alla violetta e di essenza di rose di Bulgaria, la più fina che ci sia. Cipollone, i suoi figli e i suoi parenti furono fatti uscire dalle baracche, allineati contro i muri e spruzzati dalla testa ai piedi finché furono fradici, tanto che Cipollino si prese un raffreddore. E questo è uno dei titoli più famosi di Rodari. E infine Lo Zoo delle Storie, illustrato da Fulvio Testa, è pubblicato da M Edizioni, 14,90 €, che presenta una serie di racconti di animali che ci portano anche nell'antica Persia, piuttosto che nel fondo degli oceani. Verso mete lontane ci porta anche il libro L'incredibile storia di Sungiata, imperatore Mandingo. Il libro è di Donatella Zigliotto, è illustrato da Fabian Negrin, è pubblicato da Beisler Editore e costa 14,90 €. Andiamo quindi in Africa, nel Mali, per immergerci nelle avventure meravigliose di questo principe. All'inizio della fiaba nessuno scommetterebbe sulla sorte del personaggio, invece la fiaba ci fa scoprire le grandi avventure nelle quali il protagonista si va a cacciare. Ricordo a tutti, grandi e piccini, che oggi a Milano si conclude la manifestazione Alza il volume, se leggi fatti sentire, che è iniziata il 20 marzo. È un'iniziativa che appunto è stata organizzata dal Comune di Milano per appassionare sempre di più alla lettura. Oggi in particolare c'è un appuntamento che riguarda i più piccoli, l'ultimo appuntamento, quello che si svolge alle 15 all'Acquario Civico, il tema dell'acqua, l'acqua che è in noi, l'acqua che è intorno a noi, storie d'acqua, storie di vita, nel corso del quale genitori, educatori, bambini e adolescenti possono incontrare Maria Rita Parsi. E ancora oggi ci sono molte altre iniziative, tra cui una lettura in vettura sul tram 31 che unisce Milano, Cinisello, Balsamo dalle 10 alle 18. Interessante iniziativa anche al Tribunale di Milano, dove un magistrato importante, Livia Pomodoro, legge la Costituzione italiana. E poi altre iniziative alla Fondazione Corriere della Sera e in varie altre librerie, come la Libreria Equilibri, al Museo Paul di Pezzoli, a Palazzo Cusano, al Museo Bagatti Valsecchi e a Villa Necchi e Campigli, in vari orari. Ripeto, oggi ultimo giorno di questo ciclo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, stiamo parlando quindi di libri per bambini, i quali naturalmente ripropongono anche dei personaggi particolarmente popolari, per esempio Geronimo Stilton, che a sua volta racconta a modo suo e nello stile grafico che i lettori conoscono bene un classico della letteratura per ragazzi, Heidi, creata da Johanna Spyri, la scrittrice svizzera vissuta tra il 1827 e il 1901. I personaggi dunque assumono aspetto topico pesco in questa edizione della PM che costa 15,50 €. Ma sentiamo l'autore, lo stesso Geronimo Stilton, che è lui stesso autore di libri a fumetti, per esempio Chi ha rubato la Gioconda, che costa 14,50 €. Buongiorno signor Stilton. Dottor Carruba? Eccomi qua. Non sto più nella pelliccia. Allora cominciamo, signor Stilton. Ma certo, quando vuole, sono pronto. La prima domanda, come fa a convincere i suoi lettori a leggere? Quali sono le motivazioni per le quali i suoi piccoli lettori dovrebbero leggere? È semplice, risponderei che leggere è una cosa fondamentale, perché sviluppa la fantasia, la creatività, stimola l'interesse per parole e temi nuovi, facilita l'apprendimento e la crescita individuale. Per questo è molto importante stimolare la confidenza con i libri fin dai primi anni di vita del bambino, quando è ancora un bocconcino di grana, creando la consuetudine da parte di mamme, papà e nonni della lettura ad alta voce a chi ancora non è in grado di leggere da solo. Ma lei, signor Stilton, che libri legge? Che genere le piace di più? Per mille mozzarelle. Ho passato ore e ore leggendo e rileggendo i grandi classici. I romanzi d'avventura come L'isola del tesoro, Il richiamo della foresta. Ma di questi grandi classici per ragazzi c'è qualcuno ai quali si ispira o ai quali è più legato? Beh, Ho cominciato a raccontare queste grandi storie al mio nipotino Benjamin, fin da quando era molto piccolo, tenero, tenero. Vedendo come anche lui si appassionava a questi racconti, allo stesso modo in cui accadeva a me alla sua età, mi è venuta l'idea di creare una collana per i più piccoli, per avvicinarli a questi stratopici romanzi, in modo semplice e divertente. Piccole donne, i tre moschettieri, il libro della giungla e naturalmente Heidi. Bene, adesso allora lasciamoli ai nostri piccoli amici perché li leggano. Grazie, signor Stilton. Un topoloso saluto a lei, dottor Carruba. A presto. I miei formaggi. I libri naturalmente possono far divertire, ma possono anche cominciare a far pensare, per esempio sensibilizzare su alcuni temi di particolare attualità, per esempio l'ambiente. Allora ci sono i libri della serie Holly Sottomarino, sono libri per bambini più piccoli, dai 3 anni circa, costano 9 euro e sono lunghi 32 pagine. Sono libri per bambini più piccoli, dai 3 anni circa, 32 pagine, costano 9 euro e li pubblica Battello a Vapore. Oppure il tema dell'immigrazione. De Agostini propone per esempio il romanzo, che è certamente più rivolto ai bambini più grandini, di Francesco D'Adamo, Storia di Ismael che ha attraversato il mare, 160 pagine, 9,90 euro. E questa è la storia di un giovane fuggiasco dal Nord Africa, unico superstite del naufragio del barcone che lo sta portando in Italia, anzi in Italia, come la chiama lui, e ci presenta il libro Un'avventura non scontata, utile certamente per accostarci al mondo e alla vita di tanti cittadini del mondo per i quali il nostro paese resta un miraggio. Oppure c'è la storia, il libro ci può fare accostare a degli episodi storici particolarmente interessanti. Per esempio vi segnalo il libro della scrittrice Paola Capriolo, che ha dedicato un'opera a Indira Gandhi, e così si intitola il libro pubblicato da Edizioni EL, che è illustrato da Anna ed Elena Balbasso. Costa 15 euro e sono 110 pagine. Una scrittrice dunque che si misura con le avventure di questa straordinaria signora, esponente di una longeva e potentissima famiglia politica indiana, che è stata protagonista della storia recente di quel grandissimo paese e che quindi ha condizionato anche in parte la storia del mondo. Sentite queste righe sull'arrivo al potere della signora Gandhi. '19 gennaio 1966. Una folla da grandi occasioni è radunata intorno alla sede del Parlamento. Tutti discutono, polemizzano, si scambiano previsioni e commenti. Ma quando finalmente il capogruppo del Congresso compare sul balcone, a un tratto si fa un grande silenzio, rotto soltanto da una voce, che di laggiù grida al nuovo arrivato: «È maschio o femmina?» È la prima domanda che i parenti riuniti fanno dopo un parto, appena il dottore o la levatrice si degnano di mostrarsi. Ma in India si usa la stessa formula anche per chiedere «è andata bene o male?». E dato che lì, per tradizione, gli uomini contano più delle donne, in un caso come nell'altro, la risposta che tutti si augurano è «maschio». Eppure, questa volta, la parola «femmina», scandita dal deputato, viene accolta dalla folla senza ombra di delusione, anzi, addirittura con un boato di entusiasmo, perché significa che il nuovo primo ministro non è il signor Morarji Desai, ma la signora Indira Gandhi, e la gente considera una splendida notizia che alla fine abbia vinto lei. C'è anche la scienza che ci dà delle opportunità di approfondimento, per esempio con il libro Viaggio nello spazio, pubblicato da Editoriale Scienza, 22,50 euro. Un libro interattivo questo, con moltissimi pop-up, cioè si aprono le pagine ed esplodono delle illustrazioni in rilievo, linguette e altre animazioni che faranno accostare, divertendo, i ragazzi al gusto di esplorare l'universo. E poi naturalmente non dimentichiamo quelle che possono essere grandi passioni, per esempio il calcio, di Darwin Pastorin, scrittore e giornalista sportivo. Vi segnalo, ragazzi, questo è il calcio, manuale del pallone, è pubblicato da Gallucci, 134 pagine, 12 euro, ed è questo un libro per sapere tutto sulla storia, i grandi momenti, le grandi figure del football. Poi c'è il pattinaggio su ghiaccio, che troviamo in una serie che si intitola Ice Magic, pubblicato da EL. I titoli sono di Lia Celli e sono illustrati da Sara Nott. Sono uscite 3 nuove avventure che hanno appunto il protagonista delle ragazze che pattinano sul ghiaccio, Crystal Circus, Con le ali ai piedi, Kiss and Cry, 122 pagine, 7,90 euro. ci si può accostare con un libro in modo insolito anche alla religione. Vi segnalo due titoli. Il primo è di Carlo Fruttero, ma attenzione, precisa lo stesso autore, con l'alto patrocinio dell'Onnipotente. Si intitola La creazione, illustrato da Lastrega e Testa, pubblicato da Gallucci, 13 euro. Questa è la lettura poetica e anche un filo scettico, va subito precisato, della prima pagina del Vecchio Testamento, che peraltro viene riportata anche nella sua versione ufficiale. Segnalo anche Nella bottega di Luigi di Emilio Barbera, con l'illustrazione di Rosalinda in Cardone, pubblicata da Città Aperta, 14,50 euro, che ci fa conoscere l'esperienza di una città particolare che aiuta a scoprire l'attenzione per gli altri e il senso dell'accoglienza. Oggi dunque abbiamo avuto una trasmissione rovesciata, ma naturalmente rispettiamo le tradizioni e quindi a questo punto il confettone. La lettura che consiglio agli ascoltatori adulti oggi è un giallo di uno degli autori italiani più noti, Loriano Machiavelli, che torna con Delitti di gente qualunque, pubblicato da Mondadori, 366 pagine, 19 euro, dove ritroviamo il sergente Sarti Antonio in un'avventura naturalmente bolognese tra misteri secolari che ci fanno ripartire addirittura da Matilde di Canossa e tecnologie sospette che possono scatenare una vicenda davvero sorprendente. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Passo la linea a Respiro, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica, vi do appuntamento la settimana prossima.